Friuli nel mondo, musiche del Friuli, 42esima trasmissione dedicata agli emigrati. Terza ed ultima rapsodia musicale che su motivi di antichi e nuovi canti friulani rende l'anima della regione tra il Timavo e la Livenza, di un paese saturo di vicende, non meno che di testimonianze di un'alta civiltà. Scherzosa la villotta popolare. Benedete l'antigae, iere dute buide in, e cumo nome canae, dute plene di bontin. Benedetto il buon tempo antico, quando la gente era buona, ed ora solo ragazzaglia piena di spensieratezza. Scherzoso anche il motivo che segue, colto nell'orto dei fiori d'amore. Giovanin color di rose, le passat par chi cumò. Lui mi ha detto, mandi murose, io gli hai detto, ma la fenò. Giovannino color di rosa è passato di qui or ora, mi ha detto ciao bella, e gli ho risposto no, affatto. Patetica invece, anzi la più patetica, la villotta della bella stella. O tu stelle, biele stelle, so palese il mio distin, vada ur di che montagne, la calè il mio curisin. O tu stella, bella stella, rivela il mio destino, va dietro quella montagna dov'è il mio amore. Uei prea la biele stelle, duci sans dal paradis, che il Signor fermi la guerra, che il mio ben torni in paese. Voglio pregare la bella stella e tutti i santi del paradiso perché il Signore fermi la guerra e il mio bene torni in paese. Thank you. e ricca di pathos umano la preghiera di una frutine, la preghiera di una bimba. Versi di un operaio poeta, l'udinese Girani Petrozzi. È l'invocazione di una figlia al padre emigrato, il quale dopo la partenza non si è fatto più vivo con la famiglia, insabbiato come purtroppo si è pure raramente appiene. Signorot, queste preghiere è il flor della me fede. Use dis mattine e sere, fait cal torni il mio papà. Le partit une mattine, cunt un sac e ne valise. Le partit pa l'Argentine, il país sol Dio lo sa. Signorot, e fait cal vedi tant lavor, tante fortune. Signorot, fait che non puedi, i siei chiars dismente a.